Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. 9 milioni di italiani utilizzano abitualmente le piattaforme della sharing economy per condividere beni, prodotti, servizi e competenze. Rispetto agli anni scorsi però la crescita rallenta e registra un incremento di solo il 2%. Sono numeri che testimoniano il momento di riflessione e di transizione del fenomeno, sul quale come ogni anno fa il punto l'evento di riferimento per la sharing economy in Italia, Share Italy. Anche quest'anno noi c'eravamo per raccontarvi tutto quello che c'è da sapere. Dopo le polemiche delle scorse settimane parla per la prima volta ai nostri microfoni Foodora, la piattaforma per la consegna di cibo a domicilio che respinge le accuse di sfruttamento dei riders, i fattorini in bicicletta, e spiega il proprio modello di business. E poi siete pronti per le Playable Cities, dalle animazioni con la realtà virtuale ai campi da calcio a geometria variabile. Le città puntano a intrattenere e divertire cittadini e turisti. Nel focus sui trend di questa settimana vi raccontiamo allora i casi che fanno scuola. Allora, Louis di St. Louis, mi resta una sola domanda. Ok. Come può una ragazza disoccupata con 3 coinquiline permettersi una patchwork denim bowlie di Louis Vuitton? L'ho affittata. Borsa, in prestito o rubarla? Ma come il noleggio dei DVD? Come posso non saperne niente? Resta con me, ti sistemo io. If I had one chance to... Era il 2008, il possesso iniziava a diventare fuori moda e anche un film come Sex and the City iniziava timidamente a raccontarlo. Quando nel 2010 ho iniziato a parlare in questo programma di Sharing Economy, utilizzavo metà dei minuti a disposizione per spiegare cos'è la Sharing Economy. Ora dovrei utilizzare quello stesso tempo per spiegare che cosa non è Sharing Economy. Dico dovrei perché non lo faccio, sarebbe un impresa troppo ardua e dal risultato incerto. Allora ho scelto di approfondire gli aspetti che necessitano una riflessione, quindi gli impatti a livello economico, fiscale, giuslavoristico e sociale della sharing economy. I numeri del fenomeno testimoniano quasi un assestamento. Dopo aver registrato incrementi a doppia cifra, prendendo in considerazione la popolazione internet, le persone che dichiarano di aver provato servizi collaborativi sono passate dal 25% dell'anno scorso al 27% di quest'anno. Il dato emerge dalla ricerca di Kantar TNS presentata alla quarta edizione di Share Italy, numeri che raccontano un rallentamento e una trasformazione del fenomeno, ci spiega Federico Capecci. Ci raccontano sì una crescita e rallentamento in riferimento al concetto originario, forse a ben vedere, quello della collaborative economy, di questa economia che crea valore aggiunto proprio dallo scambio tra individui. In realtà poi nascondono delle accelerazioni fortissime anche nel nostro paese sull'economia anche guidata dalle grandi multinazionali che stanno entrando in questo nuovo settore. Forse siamo proprio giunti in un momento in cui occorre dare più di una definizione sotto questo cappello della sharing economy. C'è una sharing economy portata avanti da una genuina voglia della popolazione di riattroparsi del consumo, di evitare sprechi e di mettere a disposizione e rimettere a disposizione nuove risorse. Però c'è un'altra sharing economy che è più economic sharing e quindi ha bisogno di una nuova definizione affinché l'ingresso delle multinazionali in questo settore sia percepito come realmente debba esserlo. Per la prima volta la vostra indagine confronta il dato italiano con quello di altri paesi. Che cosa ne emerge? Allora, in Italia intanto abbiamo a livello proprio di popolazione italiana un italiano su due oggi oramai conosce queste piattaforme di sharing economy. Poi abbiamo un secondo step che è l'utilizzo, che è anche dettato dall'utilizzo di internet, e sappiamo quanto in Italia il digital divide sia ancora un qualcosa da mettere in agenda, e questo influenza un po' tutti gli altri dati, ovvero nella relazione con gli altri paesi europei, cioè abbiamo analizzato Francia, Germania, Inghilterra e Spagna oltre all'Italia, notiamo che l'Italia ha delle penetrazioni piuttosto alte ma sconta un po' la connessione ad internet, quindi ha penetrazioni paragonabili a quelle della Spagna, della Germania, ma con una penetrazione di internet è piuttosto contenuta, che quindi come dire, è la vera barriera alla sharing economy oggi nel nostro paese. Caso diverso è quello francese, in cui la sharing economy è già un dato di fatto e che è anche portata avanti dalla grande offerta di sharing che oggi la popolazione francese ha. Nel caso specifico, in Italia ogni persona che offre un servizio in sharing e porta con sé tre che utilizzano, in Francia le percentuali sono molto più a favore di chi offre, quasi a dire che la sharing economy debba essere veramente partecipata, non solo nel ricevere servizi ma anche nell'offrire i propri beni in condivisione. I dati che abbiamo raccontato che cosa lasciano presagire per il futuro? Qual è la vostra previsione? La nostra previsione è che appunto la sharing economy crescerà a due o tre vie, a livelli molto molto diversi. Ci sarà una sharing economy partecipata dal basso del cittadino, che forse è destinata a crescere a ritmo un po' più lento, rispetto invece alla sharing economy, cioè all'economia dello sharing, a questi servizi che di fatto mettono a disposizione case, mobilità prima di tutto e molto guidati dalle multinazionali, che tenderà a crescere sempre di più. E poi c'è un altro invece livello, che è il terzo livello, ancora molto poco presente, su cui però noi stiamo prestando molta attenzione, che è la sharing economy tra impresa e cittadini, ovvero quando la stessa impresa o tra imprese oppure con il cittadino inizierà a condividere proprio i propri asset. Pensate quanto di nuova economia potrebbe sviluppare la messa a disposizione di impianti produttivi, per esempio, nella popolazione. It's always more fun to share with everyone. Le piattaforme italiane di sharing economy, comprese quelle internazionali con sede in Italia, continuano comunque a crescere. In Italia, comprese quelle di crowdfunding, sono ormai oltre 200, in crescita del 10%, e si allargano anche i settori, dalla casa ai trasporti, dal turismo al welfare, fino a finanza, mobilità, cultura, lavoro e poi anche scienza. Ce lo racconta la mappatura messa a punto come ogni anno da collaboratori e Trilab, laboratorio di ricerca dell'Università Cattolica di Milano, le due realtà promotrici di Share Italy. Marta Mainieri è la fondatrice di Collaboriamo. Noi stiamo raccontando come la sharing economy impatta in maniera diversa, con diverse velocità, su 10 diversi mercati. Ne abbiamo presi 10 soltanto per prenderne alcuni, ma in realtà la sharing economy sta impattando su tutti i mercati in maniera differente, in alcuni casi molto più lenti, in maniera più veloce, come nel caso dell'accoglienza peer-to-peer. Però stiamo notando che in ogni mercato c'è un cambiamento, si utilizzano pratiche collaborative, a segno del fatto che probabilmente la cultura è un fattore culturale quello che sta avvenendo, e che quindi avrà tempi probabilmente anche molto più lenti di quelli che ci aspettavamo. È necessario in questo momento iniziare a differenziare e a dire che cosa è sharing economy e che cosa no? Allora, a me non è mai piaciuto tanto farlo, perché sembra sempre una posizione di difesa. In realtà però quello che sta avvenendo è che, visto che questa parola negli ultimi anni è stata un po' inflazionata, quindi l'hanno usata tutti, oggi veramente la usano in modo improprio, per cui ci sono servizi che con la sharing, basta semplicemente il fatto che non si condivide niente, quindi non sono sharing, rientrano in questo cappello, perché questa è la notizia. Quindi che la sharing economy non è buona come si diceva, ma invece no, è necessario fare un po' di chiarezza. Poi dopo i confini è giusto anche tenerli sempre un po' aperti, però un po' aperti, non completamente aperti. Una delle cose da rimarcare è l'innovazione sociale. Innovazione sociale e sharing economy devono viaggiare di pari passo per l'autenticità del modello, così come è nato. Sì, io credo che questo sia un punto importante, no? Laddove almeno la promessa era quella, la promessa era: noi stiamo pensando a nuovi servizi che permettono di ridistribuire le ricchezze, fare bene all'ambiente e farci sentire un po' meno soli. Ora, non è detto che tutte le tre dimensioni, cioè tutti e tre benefici, devono per forza viaggiare insieme, però è chiaro che se era questa la promessa, se nessuna delle tre funziona, evidentemente la promessa non è stata mantenuta, e quindi probabilmente la sharing economy in questo caso non è sharing economy. A qualche settimana di distanza torniamo sulla protesta dei riders, i fattorini in bicicletta di Foodora, piattaforma per il food delivery, la consegna di cibo a domicilio. Torniamo sull'argomento perché per la prima volta parlano i country manager italiani della startup tedesca per rispondere a chi li accusa di sfruttare, di sottopagare i 700 fattorini che operano a Torino e a Milano. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, restate con noi. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Come annunciato, torniamo allora a parlare di Foodora, la piattaforma per il food delivery finita nelle polemiche per la protesta dei suoi riders. In questo caso parliamo di on demand economy, non di sharing economy. Qualcuno la chiama gig economy, l'economia del lavoretto, della prestazione occasionale. Il nostro modello di business si basa sulla flessibilità, ci dice Matteo Lentini, uno dei due country manager Italia, che così risponde alle critiche. La protesta è nata a Torino ed è stata intrapresa da una parte limitata della nostra flotta, proprio perché sono lamentati in seguito al passaggio da un compenso d'ora a un compenso d'ordine. Noi avevamo già testato con successo a Milano il passaggio da questo primo metodo contributivo al secondo e a partire da settembre abbiamo iniziato a stipulare dei contratti di collaborazione con i nuovi rider che volevano entrare a far parte della nostra flotta di Foodora. Era un cambiamento peggiorativo? Non direi proprio così. Prima, i ragazzi avevano un compenso d'ora di 5,60 euro lordi, che equivalevano a 5 euro netti. Con l'aumento a 4 euro lordi a consegna, dati appunto che ogni rider fa in media due consegne per ora, questo si traduce in un compenso orario con il nuovo sistema più alto, ovvero 8 euro lordi, che sono 7,20 euro netti, quindi decisamente più alto rispetto al compenso orario. Con il compenso a consegna però sono, come dire, sottoposti a una pressione maggiore e quindi a andare incontro magari a situazioni anche di pericolo sulla viabilità. No, assolutamente no, non incentiviamo assolutamente questo tipo di comportamenti. A chi dice che il lavoro così come è strutturato da voi dovrebbe essere inquadrato in una subordinazione, che cosa rispondete? Intanto il nostro modello di business per natura propria del modello è sostenibile solo con delle forme di lavoro che siano flessibili e autonome. Questa non è una richiesta che rispecchia l'interesse di tutti i nostri rider, perché sono i nostri rider che scelgono liberamente di firmare un contratto di collaborazione continuativa con Foodora perché richiedono la massima flessibilità. Focus sui trend. Non solo smart cities, le città diventano anche playable cities, in grado di divertire e intrattenere anche grazie alla tecnologia tutti coloro che le vivono o le visitano per turismo o per lavoro. È una trasformazione che interessa i luoghi pubblici, ma non solo, e che ci facciamo raccontare da Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata. Grazie, ciao a tutti. Da dove iniziamo? In quale città ci porti? Beh, possiamo iniziare da Bristol, una città appunto inglese dove qualche anno fa, nel 2013, uno studio creativo che si chiama Watershed ha ideato insieme al British Council il Playable City Award, cioè proprio un riconoscimento anche concreto, perché c'è un premio di 30.000 sterline che vuole appunto incentivare quest'idea della Playable City. Quest'anno, per esempio, il concorso, che è la sua quarta edizione, aveva come tema Journeys, quindi trasporto urbano, diciamo, e dopo una selezione di 8 progetti su 81, quindi artisti, designer, anche esperti di tecnologia, no, da tutto il mondo, la giuria ha selezionato il progetto Stop Smile Stroll di uno studio inglese, Yoshen Mann. Consiste in un intervento ludico da realizzare ai semafori pedonali, no? Che vuole trasformare un po' l'attesa che ognuno ha, un po' silenziosa, individuale, noiosa, in un momento invece di incontro che può essere comunque fortuito, no? Casuale, però anche divertente. I pedoni in sostanza possono premere un pulsante e quando la luce diventa verde si attivano, entrano in funzione suoni, luci, immagini, anche parole che ravvivano, rallegrano questo attraversamento. È interessante il collegamento col territorio perché la comunità del quartiere sarà lei poi a decidere se questo momento può trasformarsi in un balletto, diciamo così, in una festa da 30 secondi o, non so, un momento di riflessione condivisa, no? Sempre a partire da questi stimoli. Molti di questi casi interessano luoghi turistici o comunque beni del patrimonio artistico di una città. Sì, assolutamente, perché in questo caso la tecnologia, no, ha la capacità di amplificare le potenzialità che questi luoghi iconici, storici hanno. E un bel esempio in merito è sicuramente quello dell'installazione Vœux Célestes di Miguel Chevalier, che c'è stata a Parigi in occasione della Notte Bianca all'inizio di ottobre. Questo artista di virtual e digital art ha realizzato all'interno della chiesa di Saint-Eustache un'installazione appunto di realtà virtuale generativa, cioè che interagisce con questa architettura gotica che è anche molto drammatica, emozionante, no? Questa è una delle chiese più grandi e famose di Parigi, è nel primo arrondissement vicino al museo del Louvre, no? È stata costruita tra il 500 e il 600 e volte celesti è una coreografia dinamica che viene proiettata sulle volte della chiesa, sulla navata centrale, i transetti, no? E anima i volumi di queste colonne come? Seguendo i movimenti dei visitatori, no? Cambiando di conseguenza le luci proiettate con guizzi di colori e costellazioni immaginarie. Le immagini sono veramente spettacolari, le abbiamo già postate come sempre sulla nostra pagina Facebook. Tecnologia, ma non solo, dicevamo Isabella, c'è anche chi usa metodi analogici, diciamo così, per rendere più divertenti gli spazi che ci circondano. Per rendere anche più aperta la città ad un intrattenimento condiviso, spontaneo, che può essere da un lato sia più legato, no, alla fisicità, quindi al divertimento di tipo sportivo, e dall'altro invece intellettuale. Un caso bello per quanto riguarda lo sport è nato a Bangkok un paio di mesi fa il primo campo da calcio non rettangolare. Ecco perché? Perché è ricavato negli spazi interstiziali tra i grattacieli e i condomini di un quartiere che è densamente abitato e nasce proprio per dare ai giovani un luogo dove poter anche solo giocare una partita di calcetto. E l'hanno ribattezzato The Unusual Football Field e ha fatto già il giro del web, appunto perché il primo al mondo a non avere questa forma rettangolare che è quella regolamentare di solito dei campi da calcio. L'idea è stata sviluppata da una società di costruzioni in collaborazione naturalmente con un'agenzia pubblicitaria anche, e aveva l'obiettivo di costruire questi campi da calcio sfruttando degli spazi e riqualificando quindi anche zone che altrimenti sarebbero destinate all'abbandono. E il risultato finale è bello perché è un terreno di gioco a geometria variabile ma sempre simmetrico, perché così dai la stessa opportunità alle due squadre, e anche molto iconico perché è fatto in cemento rosso, rosso mattone, linee laterali grigie, insomma, ecco, per momenti di divertimento libero e condiviso. Accennavo prima invece ad un divertimento più intellettuale, ecco, più culturale, e qui un caso interessante arriva invece dall'America, è The Public Collection, si chiama, ed è un progetto sia artistico che di promozione alla lettura, tipo book sharing, no? Ed è sparso per tutta la città di Indianapolis. È nato dall'iniziativa di una fondazione privata, insieme però alla biblioteca pubblica della città, che ha fornito i libri. E in pratica consiste nella realizzazione da parte di 9 diversi artisti di 9 diverse installazioni, no? Molto diverse, eccentriche, in grado quindi di attirare l'attenzione dei passanti, che sono in realtà dei contenitori per i libri, libri che tutti, secondo il book sharing appunto, tutti possono prendere, leggere e poi riporre quando vogliono. Ogni opera è in relazione con il territorio della città, cioè con la location dove viene inserita, ognuna ha un suo messaggio. Non so, per fare un esempio, ce n'è una che si chiama Harvesting Knowledge ed è messa nella zona del mercato, nel city market, e si ispira proprio alle macchine agricole che dalle risorse della terra producono cibo. Sono le librerie che chiunque di noi vorrebbe avere in casa. Assolutamente, ce n'è una anche molto carina per i bambini che è mobile ed è inserita nel contesto del Museum of Art e gli scaffali sono fatti di mattoncini Lego e si chiama PlayStation. È una trasformazione questa che interessa anche il retail, con negozi sempre più orientati al al cosiddetto retailtainment, cioè vendita e intrattenimento insieme. Che partono quindi dall'esperienza, no, del prodotto o del servizio e però si estendono fino ad esperienze contigue di arricchimento, di divertimento. E Londra in questo caso è la solita nostra città anticipatrice delle tendenze. A settembre IKEA ha lanciato un ristorante pop-up nel quartiere di Shoreditch, che è appunto uno dei più cool della città, e si chiama Dining Club. È rimasto aperto dal 10 al 15 e ha proposto i piatti della tradizione scandinava, rivisitati però in chiave IKEA, cioè nell'ottica fai da te. E la particolarità del ristorante consisteva appunto nel fatto che a cucinare erano i clienti. IKEA ha messo comunque a disposizione degli chef, dei professionisti di settore che seguivano tutte le fasi di preparazione, supervisionavano un po' così i piatti, però ecco, era possibile proporsi come chef, non so, per un brunch, un pranzo, una cena, anche invitando dei propri amici. Abbiamo 30 secondi per l'ultimo caso. L'ultimo caso, allora, sempre da Londra, bellissimo, The Creator Store, fatto da Google, quindi un altro colosso, che è un negozio fisico tutto dedicato a YouTube, di cui Google è proprietario, dove gli YouTuber più popolari possono vendere al loro pubblico prodotti reali, quindi non più rimanere virtuali, ma poter far conoscere alle persone che li seguono online come sono e che cosa propongono, quindi un negozio di gadget sicuramente particolari, abbigliamento, libri, cosmetici, cancelleria e anche un luogo dove poterli conoscere di persona. Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima. Alla prossima, grazie a te Maria Luisa. Il consumautore. Il mondo dei consumi è cambiato all'insegna di un protagonismo dei consumatori, meglio dei consumautori come diciamo spesso, sempre più accentuato. A guidarci in questa riflessione sul cambiamento c'è Francesco Morace. Ciao Francesco, buonasera. Buonasera Maria Luisa. Per questa puntata ho scelto un argomento che è legato alla musica e non solo, e cioè alla sincronia e alla sintonia. Viviamo in un mondo, come spesso ci diciamo Maria Luisa, complicato, caotico, imprevedibile, e dove sempre più vince chi riesce a entrare in sintonia con ogni singolo interlocutore. Quindi funzionano meno le categorie generali e generiche e funziona molto questa capacità di ascolto, e siamo in una radio e quindi mi fa piacere dire che per questo siete in un mondo che è ancora molto sensibile a questo tema, per essere in sintonia, in sincronia con le persone vere. Nel mondo dei consumi e della comunicazione è il recupero anche di una certa sensorialità opposta o ad integrazione del mondo digitale, così? È così, e l'altra cosa da dire è che il mondo abbastanza poco considerato dell'udito, quindi di uno dei nostri sensi, torna a essere molto importante rispetto a una visione che invece era quella delle immagini, no? L'idea della società delle immagini. Qui abbiamo anche degli esempi interessanti, no? Nel mondo del consumo che già in alcuni casi abbiamo fatto. Mondo ad esempio musicale, Massive Attack, quindi gruppo storico importante, che propone un'app che entra in sintonia con il tuo battito cardiaco, no? Quindi modifica alcune sonorità e il ritmo sulla base del tuo essere profondo, perché cosa più del cuore. E la stessa cosa viene fatta da una grande catena giapponese che è Muji, che molti di noi osservano con grande attenzione, che ha creato l'app To Relax, che ti aiuta attraverso gli stimoli musicali ancora una volta a entrare in sintonia col tuo battito cardiaco. Quindi emozione e calcolo da una parte, fisicità e virtualità dall'altra, sono ponti che vanno costruiti? Sono ponti che vanno costruiti, qui forse un riferimento colto ma che molti ascoltatori avranno in mente è quello anche di Jung, no? Che parlava, grande psicologo, psicoterapeuta, grande avversario anche di Freud per molte letture, che parlava proprio di sincronia, cioè di un mondo che è quello della nostra vita quotidiana e dei nostri sentimenti che è magicamente in sintonia con altre cose che magari noi non conosciamo, col famoso immaginario collettivo. Lui è stato il primo a parlarne. Grazie a Francesco Morace e grazie a Roberta Frisani in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.